eccomi qua. Sono arrivato, finalmente ti ho trovata. Dai, cosa si fa? Andiamo a fare un giro, adesso accendo il motorino. C'è gran festa là. Non pensare a niente, tutto questo è divertente. Vai, siamo già qua. Stacca quella spina, ora lasciati un po' andare. Siamo arrivati alla fiesta, adesso si balla e si beve. Siamo arrivati alla fiesta, adesso si beve e si balla. Eccoci qua, grande movimento, c'è chi è fuori e chi sta dentro. Ciao, eccoci qua, luci colorate, grande musica d'estate. C'è gran festa qua, non pensare a niente, tutto questo è divertente. Dai, sorridi un po', stacca quella spina, ora lasciati un po' andare. Siamo arrivati alla fiesta, adesso si balla e si beve. Siamo arrivati alla fiesta, adesso si beve e si balla. Siamo arrivati alla fiesta, adesso si balla e si beve.